Soft peanuts, soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Oggi dedicato tutta la puntata dedicata alla chitarra, quattro chitarristi, così l'occasione è anche quella di presentare le novità, quattro chitarristi per lo più anche poco conosciuti o quantomeno sicuramente di seconda fila per quanto riguarda anche l'attenzione del pubblico. Cominciamo forse da quello meno conosciuto che Samo Salamon, personaggio curioso perché è un musicista europeo, bosniaco, cresce però musicalmente con una preparazione di tipo studi in Germania e poi si trasferisce anche negli Stati Uniti. È un musicista che, pur avendo recensioni di alto profilo, perché direi che negli ultimi 15 anni più o meno, forse anche meno, 12 anni, ha tutti gli anni proposto un progetto nuovo e sempre salutato con favore da parte della critica, ma non ha collaborazioni con altri musicisti. In compenso, nei dischi prodotti da lui, quindi nella sua leadership, ha raccolto intorno a sé praticamente tutta l'avanguardia o comunque diciamo la downtown newyorkese. E hanno suonato un po' tutti con lui, tra l'altro recentemente sta incidendo su una propria casa di incisione, precedentemente aveva fatto diverse cose con la Splash Records, quindi etichetta italiana, ha anche suonato con musicisti italiani, cioè con Achille Succi soprattutto, agli inizi perlomeno della sua attività. E quest'anno, come di consueto, è uscito un nuovo disco in trio, una formazione in trio di alto profilo, perché lo accompagnano Julien Aguillet alle ance, quindi ai sax, tenore soprano, e John Hollenbach alla batteria. Tra l'altro Hollenbach e Aguillet collaborano frequentemente, per cui sono due musicisti che si conoscono da tempo. Samo Salamon si inserisce in questo contesto decisamente in maniera positiva, il risultato è apprezzabile, è un lavoro apprezzabile, è intitolato Unity e ascoltiamo un paio di brani, sono tutte composizioni dello stesso Salamon, ne ascoltiamo due. Thank you. Thank you. Joel Harrison in Spirit House, l'ultimo lavoro prodotto da lui, dal suo gruppo, con Kung Vu alla tromba, Paul Hanson al bassoon, Kermit Driscoll e Brian Blade rispettivamente al basso e alla batteria. Anche qui, in questo caso, siamo in una generazione di musicisti che hanno dato vita a una rilettura, una rivitalizzazione dello strumento della chitarra, probabilmente uno degli strumenti che ha avuto un'evoluzione maggiore e un aiuto maggiore nell'incontro tra il rock e tutta l'esperienza che il rock ha rappresentato e il jazz. L'elettronica naturalmente non può mancare nella competenza dei chitarristi, e questo ha dato modo anche di ascoltare dei musicisti oltre che chitarristi, quindi usano lo strumento come uno dei momenti di evoluzione di quello che è anche una ricerca nel linguaggio. Thank you. Era Joel Harrison in Spirit House, l'ultimo lavoro prodotto da lui, dal suo gruppo, con Kung Vu alla tromba, Paul Hanson al bassoon, Kermit Driscoll e Brian Blade rispettivamente al basso e alla batteria. Questa ricerca nel linguaggio è stata la carriera di un personaggio importante, poco presente sulla scena come in prima fila, ma sempre dietro le quinte. Si tratta di David Thorne, chitarrista che ormai ha passato i 60 anni, quindi, e ha attraversato dagli anni 70 in poi un'infinità di esperienze diverse, anche le più diverse da un punto di vista musicale, per esempio colonne sonore di film, oppure la produzione, oppure anche il mixaggio di molti musicisti, sia dell'ambito di un certo pop d'avanguardia, diciamo, e anche in mezzo alle fila del jazz più sperimentale. Penso ad esempio a una lunga collaborazione che tuttora rimane con Tim Bern. Quindi David Thorne è sicuramente un personaggio di prima grandezza. Ha inciso alcuni dischi pochi sono quelli a suo nome, alcuni sono stati prodotti dall'ECM. Quest'anno è uscito l'ultimo lavoro, dopo una decina d'anni quasi, 8 anni che non usciva nulla, è uscito un lavoro in solo, quindi Thorne suona le chitarre, se meglio, per meglio dire, e in più si muove intorno a un'elaborazione elettronica, cercando un carattere per ogni brano che costruisce, e riuscendoci. Sicuramente un talento notevolissimo, e ascoltiamo adesso un brano preso da questo disco, intitolato Only Sky, l'intero lavoro. Direi che in questo caso percorre una strada più legata a un'evocazione country, che è anche quella dalla quale proviene l'esperienza del rock, sicuramente un musicista che parte dall'esperienza del rock. Thank you. Thank you. Questo era David Thorne, nell'ultimo un lavoro uscito per l'ECM quest'anno, Only Sky, un bel disco che appunto rappresenta degnamente quello che è il mondo espressivo di questo notevole musicista da tanti anni presente sulla scena, della scena musicale a vario titolo, tra l'altro sempre con qualità notevoli da esprimere. L'ultimo della comitiva dei chitarristi per oggi, giovane ma non troppo, ben maturo ormai, si tratta di Liberty Hellman, è un musicista che negli ultimi 15-18 anni è stato protagonista sulla scena newyorkese di uno degli aspetti, diciamo, stilistici più chiari, più evidenti, uno dei pochi, diciamo, che si può definire negli ultimi anni per il jazz, e collaborando con Harry Treadgill principalmente, ma anche con altri musicisti come Steve Lehman oppure anche con Steve Coleman, quindi partecipando in pratica a tutto quello che è stata l'evoluzione della bass music e di quello che era anche che sono gli epigoni del lavoro costruito dalla ACM per quanto riguarda Treadgill. È uscito, non sono poi molti i dischi che escono con la guida di Liberty Hellman, è uscito quest'anno per la PI Records, che è l'etichetta fondata da Steve Coleman e da Harry Treadgill, e alla quale partecipa e collabora Liberty Hellman, ed è un disco notevole, un bel disco con appunto collaboratori che sono frequenti, come appunto Steve Lehman, Jonathan alla sax contralto, Jonathan Finlayson alla tromba, José Dávila alla tuba o trombone, anche in questo caso un musicista che con la sua, come dire, col suo colore timbrico condiziona e sottolinea le differenze di musicisti come Treadgill e Steve Lehman. E poi Stephen Cramp al basso e Damon Reid alla batteria, quindi collaboratori frequenti. Il risultato è decisamente positivo, è sulla stessa linea stilistica, però lascia anche spazio per dell'espressività personali di Liberty Hellman, che appunto sottolineano anche quello che è il suo carattere musicale. Questo era Radiate di Liberty Hermann, l'ultimo disco uscito per la P Records quest'anno. Bel lavoro, una delle cose migliori uscite quest'anno, guidata appunto da questo chitarrista, con una formazione di primissimo piano, quindi collaboratori come Steve Lehman, Jonathan Finlayson, José Davila, Stefan Kramp e Diamond Reid. Era anche l'ultimo ascolto per oggi, vi ricordo che l'intera trasmissione e anche le informazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito radiocittafugico.it alla sezione playlist. Questo è tutto, salve, alla prossima. Sal peanuts. Jazz on megahertz. Sal peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.